mio turno, entro intorno, tutta l'aula si zittisce, io rispondo prima piano, monosillabi, mi sento rilassato, all'improvviso rilassato, mentre spiega quel PM, spiega il giudice la storia. Arrestato, arrestato per la vita. Troppo crede che sei sempre, tanto ha fatto, tanti giorni, mesi, anni. Passato turbolento, dice spiego, è colpa vostra. È colpa vostra! È colpa vostra! Il vostro carcere è un inferno, non potevo sopportarlo. Per le lotte, per le nostre lotte dentro, poi qualcosa gli è mutato. È il mio turno poter uscire, ma non è obbligatorio, troppo. Troppo da difendere, tutelare dignità, identità. Non ho niente da vendere, è il mio turno poter uscire. Dove ti scioglie legge, la legge è inganno. Troppo, troppo da difendere, tutelare dignità, identità. Non ho niente da vendere, è il mio turno poter uscire. Uscire di prigione. Ma non è dove ti porta la legge, la legge inganno. Dove ti porta la legge, la legge inganno. Ma vivere col cuore sempre in gola, la pressione che ti sale, poi le cariche sottile con i cani nelle celle. Tempi rotti, colpi forti sulla porta per non farti addormentare. Vetri e vetri divisori, vetri infranti nei colloqui e la forza che è sottratta, censurata. Poi la fame, fame, fame alla sinara. E il compagno che va via, via con la testa. Via con la testa. Divisioni, rotture ci doveva rafforzare. Pugni chiusi nei processi, ritirata ai tradimenti. Tanti odi e poi isolati, mentre conti i giorni invece se ne vanno, mesi, anni e silenzi. Troppo, troppo da difendere, tutelare dignità, identità. Non ho niente da vendere, il mio turno potrò uscire. Dove ti scende la legge, la legge inganno. Troppo, troppo da difendere, tutelare dignità, identità. Non ho niente da vendere, il mio turno potrò uscire. Uscire di prigione. Ma non è dove obbligatorio. Dove ti porta la legge, la legge inganno. Vertigine, cuore leggero, riso trattenuto a stento, tante cose alle mie spalle. Vertigine, cuore leggero, riso trattenuto a stento, tante cose alle mie spalle. I compagni troppi ancora imprigionati. Mai scorderò, mi dicono sta in forma. Questi miei compagni vanno amati, giovani, generosi. Questi compagni vanno amati, rispettati, liberati.